Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questa giornata, lunedì 9 dicembre, siamo entrati ormai definitivamente nell'orgia commerciale di Natale con strade affollate, pubblicità mielate, negozi e vetrine scintillanti, tante offerte di Amazon e noi in questo tsunami commerciale ascoltiamoci Radio Bullet e buon ascolto. Il grido di battaglia delle donne, dal Cile a Parigi, da Bruxelles all'Argentina, mentre in India si continua a morire bruciate vive. In Brasile è boom di matrimoni tra persone dello stesso sesso e Ursula von der Leyen incontra la presidente donna, l'unica di tutto il continente africano, quella etiope. Io sono Angela Gennaro e questo è il notiziario di genere di Radio Bullet. Con gli occhi bendati e vestite di nero, migliaia di donne scendono per strade e nelle piazze, nella capitale cilena e ora anche in tutto il resto del mondo, Italia inclusa, cantando quello che è ormai diventato un vero e proprio grido di battaglia. Il violatore resti tu, lo stupratore sei tu. Mentre in Cile continuano i disordini, continuano da quasi 2 mesi, disordini che hanno paralizzato gran parte del paese, le donne manifestano contro la violenza sessuale in un momento in cui molte, moltissime sono le segnalazioni di violenze sulle donne, proprio su quelle donne che scendono in piazza da parte delle forze di polizia. La colpa non è mia, non è di dove ero, non è di ciò che indossavo, lo stupratore sei tu. 10.000 donne hanno cantato e ballato insieme fuori dallo Stadio Nazionale di Santiago del Cile mercoledì scorso, un posto che è stato scelto non a caso. Si tratta infatti di un luogo che è stato usato come noto centro di detenzione e di tortura durante 17 anni di dittatura militare nel paese. Questa canzone è per mostrare la violenza che le donne subiscono nella loro vita, la violenza istituzionale, la violenza in casa, la violenza politica e la violenza sessuale. Spiega The Independent Maria Isabel Matamala Vivaldi, 79 anni. Come tutte coloro che le sono intorno, indossa un rossetto rosso e una sciarpa dello stesso colore intorno al collo. La rete cilena contro la violenza nei confronti delle donne quest'anno ha registrato almeno 32 femminicidi, ma solo l'8% circa dei casi di stupro nel paese si conclude con una condanna. Questa performance riflette tutta la nostra rabbia per tutto quello che succede ed è successo. Abbiamo preso la vittimizzazione e l'abbiamo trasformata in forza, in una lotta e nella convinzione di poter creare una società senza violenza, dice Matamala Vivaldi. Sul nostro sito potete vedere le performance, il flash mob a Londra, a Santiago, in Paraguay, a Vancouver, in Canada, a Parigi, in Francia, a Bruxelles, in Belgio. Creato dal collettivo femminista Lastesis della città portuale di Valparaiso, il canto Il violador en tu camino o A rapist in your way è stato eseguito per la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, quindi la giornata internazionale del 25 novembre, in occasione di un'altra giornata di proteste nazionali in Cile. E il collettivo cileno, la Stesis, ha chiamato a raccolta tutte le donne dissidenti del mondo per riproporre quel grido, quel canto, ognuna nelle proprie città, nella propria lingua e nelle modalità che più si preferiscono. A Roma, per esempio, centinaia di persone hanno partecipato al flash mob sabato scorso davanti alla Cassazione. Domenica è stata la volta di Milano. E su Radio Bullets torniamo a parlare di India, dove la violenza contro le donne è una delle peggiori malattie del paese. A raccontarla così è Lena. Oggi ha 35 anni, ne aveva 6 quando è stata stuprata, non è mai riuscita a parlarne. La sua storia la trovate sul Guardian. Il fatto è che in India ti stuprano magari in gruppo, poi ti gettano via, in genere dandoti fuoco o con varianti sul tema. Lo avrete letto, è morta qualche giorno fa in un ospedale a Delhi, la donna, la ragazza che era stata bruciata viva mentre era diretta in tribunale. Doveva testimoniare contro le persone che l'avevano stuprata, gli uomini che l'avevano stuprata. La donna era stata trasferita in ospedale a Delhi nel tentativo di salvarla, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Residente a Unnao, un villaggio dello stato dell'Uttar Pradesh, la ragazza di 23 anni era stata vittima di uno stupro di gruppo a marzo e la sua colpa era stata poi quella di aver avuto il coraggio di denunciare i suoi violentatori, che da allora hanno fatto di tutto per metterla a tacere. Hanno minacciato la famiglia, hanno minacciato lei. Poi uno dei suoi violentatori, che era stato messo in carcere, è stato rilasciato su cauzione. Ora, pochi giorni fa l'hanno aggredita mentre andava in tribunale proprio per prendere parte alla prima udienza del processo contro i suoi presunti stupratori. L'hanno picchiata, poi hanno dato fuoco al suo sari. La giovane ha riportato ustioni sul 95% del corpo, mentre il fumo le ha riempito i polmoni, ma prima di morire, ricoverata in gravissime condizioni, è riuscita a denunciare di nuovo i suoi aggressori, che sono stati arrestati il giorno stesso. Secondo i dati diffusi dal governo, nel 2017 la polizia ha registrato 33.658 casi di donne stuprate, in media 92 al giorno. Pochi giorni fa, quattro uomini accusati di un altro stupro, il femminicidio di una veterinaria, una ragazza di 27 anni violentata mentre tornava a casa dal lavoro, uccisa il cui corpo è poi stato bruciato in un sottopassaggio stradale, sono stati uccisi a loro volta a colpi d'arma da fuoco dalla polizia, proprio nel luogo dove avevano seppellito la donna. La versione ufficiale parla di una sparatoria avvenuta quando i sospetti hanno cercato di fuggire. Secondo la ricostruzione degli agenti, ne parla anche l'ANSA in Italia, i quattro erano stati portati all'alba sul luogo dove avevano seppellito appunto la donna per ritrovare il cellulare e altri oggetti della veterinaria. Arrivati sul posto avrebbero sottratto le pistole a due agenti aprendo il fuoco e quindi gli agenti avrebbero reagito uccidendoli. La versione però appare, secondo alcune analisi, poco credibile e celerebbe un caso di giustizia sommaria. E ancora in India, una ballerina è stata ricoverata nei giorni scorsi in ospedale dopo essere stata colpita in faccia, sparata. Perché? Perché aveva smesso di esibirsi durante un matrimonio. In un video la donna viene vista ballare su un palco, fa una pausa, si sente uno sparo e la donna cade a terra tenendosi il volto. La polizia ha spiegato alla BBC di aver identificato l'uomo che avrebbe sparato e si è dato alla fuga, è latitante. L'incidente è avvenuto all'inizio del mese in un villaggio dello stato dell'Uttar Pradesh, ancora una volta, ma è balzato agli onori delle cronache solo qualche giorno dopo, quando il video è iniziato a essere condiviso sempre di più. Con le donne nella società indiana in realtà travalica i confini. In Canada, per esempio, un numero sproporzionatamente più alto di bambini maschi è nato da madri di origine indiana, secondo una ricerca pubblicata sul Canadian Medical Association Journal e riportata su Scroll da due ricercatrici, Sumit Sekhon e Navyotpal Kaur. Anche qui speriamo di averci azzeccato con le pronunce. Gli studi suggeriscono, insomma, che una percentuale significativa di famiglie di origine indiana in Canada sta praticando feticidi femminili, aborto selettivo per sesso. Dal Punjab viene una porzione significativa di immigrati indiani e di studenti stranieri in Canada ed è fondamentale comprendere la manifestazione della disuguaglianza di genere che può causare questa selezione di sesso e i pregiudizi nei confronti delle bambine all'interno della tradizionale cultura patriarcale del Punjab. Nel Punjab, una società agricola dominata dagli uomini, ci si aspetta che le donne conservino l'izzat, sarebbe l'onore della loro famiglia. Ciò significa astenersi dal fare qualsiasi cosa che possa disonorare gli uomini di casa. In questo contesto, in cui l'identità di una donna è definita dalle sue controparti maschili, non essere sposate significa, per esempio, sanzioni sociali per le donne stesse e per le loro famiglie. Quasi ogni aspetto della cultura del Punjab si legge ancora su Scroll e l'articolo è stato pubblicato per la prima volta su The Conversation. È pieno zeppo del concetto che recita più o meno così. Le donne sono portatrici dell'izzat, dell'onore dei loro padri, fratelli e di tutti gli altri parenti maschi. Le donne non sposate costituiscono ragione di estrema vergogna per i loro padri. I corpi e la sessualità delle donne sono controllati e regolati dagli uomini attraverso i costrutti culturali di onore e di vergogna. Una figlia non sposata rimane sempre una minaccia per l'onore, per l'izzat, degli uomini, e qualsiasi espressione della sua sessualità ha il potenziale per distruggere l'onore della famiglia. Non è raro che gli uomini usino la violenza per ripristinare quell'onore. Cambiamo completamente pagina e cambiamo anche lato del mondo. La mia visita è una dichiarazione politica, sono le parole della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nell'annunciare il suo viaggio ad Addis Abeba. L'Etiopia, spiega Euronews, è la meta del primo viaggio al di fuori dei confini europei della Presidente, partita il 7 dicembre scorso per la capitale, appunto, Addis Abeba dell'Etiopia. Finisce così anche la sua prima settimana di lavoro alla Commissione. Gli incontri in agenda sono stati quello con il Presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki, con il primo ministro etiope, Ahmed Abiy, premio Nobel per la pace di quest'anno, e quello con la Presidente, appunto, nonché unica donna a ricoprire questo incarico in tutto il continente, Sale Work Zewde. La mia visita è una dichiarazione politica, dice von der Leyen, consapevole dell'importanza strategica di rafforzare i legami con un partner, l'Etiopia, che ha un occhio rivolto verso il Medio Oriente e l'altro verso la pancia dell'Africa. L'Unione Africana è un alleato su cui l'Unione Europea conta, dice la Presidente della Commissione Europea. Insieme possiamo lavorare sui nostri interessi e obiettivi comuni, sullo spirito di una vera partnership tra eguali. Von der Leyen si dice molto impressionata dal suo incontro con la Presidente etiope, l'unica donna a capo di uno Stato in tutto il continente. Con la sua grande esperienza sulle questioni di genere e sull'empowerment delle donne, è veramente un modello. Cresciuta, racconta ancora, in una famiglia dove le è stato insegnato che ragazze e donne possono fare tutto. Nel 2018 il Brasile ha conosciuto, rispetto al 2017, un aumento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, un aumento boom pari al 61,7%. A rivelarlo è l'indagine condotta dall'Istituto Brasileiro de Geografia e Statistica, pubblicata il 4 dicembre scorso, in base alla quale risulta che, appunto, nello scorso anno sono stati registrati 9.520 matrimoni egualitari rispetto ai 5.887 dell'anno precedente. Ne parla Gay News. A essere soprattutto cresciute sono le nozze tra donne, 64,25%. Sono passate da 3.387 nel 2017 a 5.562 nel 2018. Le nozze tra uomini invece sono aumentate e sono passate da 2.005 a 3.958, con un incremento del 58,3%. L'indagine mostra anche come il picco dei matrimoni egualitari si sia realizzato principalmente nel mese di dicembre, con 3.098 casi contro i 614 del dicembre 2017. Dal 2013, ricorda Gay News, la risoluzione 175 del Consiglio Nazionale di Giustizia obbliga gli uffici notarili a celebrare nozze tra persone dello stesso sesso e a convertire le unioni stabili omoaffettive precedentemente normate in matrimonio. E infine una buona notizia. Sanna Marin, già ministra dei trasporti e delle comunicazioni in Finlandia, è la più giovane prima ministra al mondo. Ha 34 anni. È stata appena eletta come premier dal suo partito, i socialdemocratici. Gli altri quattro partiti al governo in Finlandia hanno allo stesso modo donne come leader. E anche per oggi è tutto. Vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo e vi ricordo che per sostenere il nostro lavoro potete sempre andare su radiobullets.com/sostienici. Here, pendeva la gara della svolta per il Bologna ieri sera al Dall'Ara contro il Milan, e questa svolta purtroppo non c'è stata. È un Bologna che veniva dalla brutta figura fatta in Coppa Italia mercoledì a Udine, prendendo 4 gol. Bologna che va in campo con Schouten, con Skovolsen, con la difesa ancora abbastanza, diciamo così, brana del solito, con Dansville terzino, visto che anche Krejci si è fatto male mercoledì in Coppa Italia. Bologna che parte con una dischetta verde, poi, come spesso gli è capitato in questa stagione, al primo errore di Tomiyasu, palla gestita male, anticipo di Piatek che praticamente va a farsi tamponare da Bani, l'arbitro fischia rigore. Qui siamo alle solite, l'ingenuità del difensore del Bologna è evidente, e la furbizia dell'attaccante rossonero lo è altrettanto. Bologna quindi che va sotto di un gol e si perde in maniera abbastanza eloquente, e subisce anche il contraccolpo psicologico, e da lì a un quarto d'ora va sotto di 2 gol con il gol di Hernandez. Bologna che ha sicuramente poca personalità, che ha anche la partita dove Palacio è meno concreto del solito, gira poco, e forse le assenze iniziano a pesare, ma a mio avviso è proprio una squadra che in questo momento non ha grande consapevolezza di sé, e si abbatte alle prime difficoltà, cosa su cui aveva lavorato molto, se vi ricordate, Mihajlovic quando è arrivato l'anno scorso, nella stagione scorsa, per salvare il Bologna. Qui poi c'è l'episodio positivo, c'è l'autogol di Hernandez a 5 minuti da fine, che potrebbe riaprire la partita, ma la partita viene definitivamente chiusa dopo neanche un minuto del secondo tempo, quando ancora Tomiyasu un rinvio corto, arriva Bonaventura che da fuori segna il gol del 3-1, partita sì finita, perché poi dopo il Mihajlovic dalla panchina prova a buttare il cuore oltre l'ostacolo, tira giù sia Schouten che Zemaili per far entrare Svanberg e Santander. Sicuramente con Santander là davanti si è un pochino più concreti, e nell'ultimo quarto d'ora entra anche Orsolini, che sarà il giocatore su cui viene commesso il fallo da rigore, che poi trasforma Sansone a 5 minuti dalla fine. Dicevamo, doveva essere la partita della svolta, non l'ora per dare continuità alla gara di domenica vinta a Napoli, ma quello che preoccupa di più è sicuramente l'aspetto difensivo, con Bologna che prende ancora tanti gol, e anche l'aspetto della poca capacità di reagire con giocatori forse non di grande spessore caratteriale. L'anno scorso probabilmente l'allenatore su questo è stato un fattore importante, quest'anno per le motivazioni che ben sappiamo questa forza non riesce a darla ai propri giocatori, la squadra è abbastanza in difficoltà quando le cose non vanno per il verso giusto. Ora il campionato prosegue, 16 punti in classifica, il terz'ultimo posto dista 5 punti con l'11 del Genoa, ma quello che preoccupa a mio avviso è appunto questa incapacità di reagire, di avere gli occhi della tigre. Domenica si va a Bergamo contro un Atalanta che sicuramente è squadra che fa più gioco rispetto al solito, che ti consente anche di giocare. Un Atalanta che verrà dalla giornata di coppa che, se alcuni incastri andranno, potrebbe anche portare a giocare il secondo turno, quindi dovrebbe ogni essere bravo a sfruttare probabilmente qualche difficoltà sia fisica che mentale della squadra di Gasperini, però ritengo che sia più opportuno andare sulle proprie difficoltà, cercare di far quadrare un pochino più la difesa e dare quel mordente che in questo momento, a mio avviso, al squadra rossoblu manca in maniera importante. Andando al basket, partiamo dalla Fortitudo che vince 93-68 contro Trento, lo fa praticamente schiantando la partita nei primi 5 minuti. Gli ospiti non sono mai nettamente in partita e la squadra di Antimo Martino può lavorare sul velluto, e alla fine ci sono due prestazioni molto importanti di Robertson, che fa 21 punti con 3 su 3 da 2 e 5 su 7 da 3, ma un grandissimo anche Aradori che fa 18 punti con un 5 su 8 da 2 e un 2 su 4 da 3, ma con 9 rimbalzi e 5 assist, grande partita contro il suo amico Gentile che tornava da avversario, 14 nel Fassims e 13 di Lunin, sempre molto, molto chirurgico. Una vittoria che consente alla Fortitudo di mantenere l'obiettivo Final Eight di Coppa Italia molto, molto vicino. Domenica nel lunchtime si va a Sassari, una Sassari in grande foro, squadra molto difficile, sarà la volta di giocare contro Gianmarco Pozzecco come avversario, ma dicevamo una Fortitudo che in questo momento ha la testa molto, molto sgombra e che ha la capacità appunto di soprattutto inizio partita di impostare i propri ritmi e la propria volontà di gioco vediamo se questo riuscirà a essere un fattore anche fuori caso con una squadra sicuramente con più talento e più chili rispetto a quanto poteva essere Trento, una Sassari che rimane tra le pretendenti al vittoria dello scudetto. Udite udite, la Virtus perde la prima partita in campionato, lo fa a Cremona perdendo 7-8 a 6-6, una gara di grande nervosismo dove la compagine di Sale Georgievic a parte un inizio promettente poi si disunisce e non ha il solito apporto di difensivo, subisce anche fisicamente, alla fine il rimbalzo contro dei rimbalzi sarà 55 per i padroni di casa, 35 per la Virtus, con ben 25 rimbalzi offensivi della squadra di Meo Sacchetti. L'espulsione per fallo tecnico e fallo antisportivo di Teodosic non fa altro che innervosire ancora più una squadra che però è sembrata nervosa dopo neanche 10 minuti di partita, non è mai riuscita a impostare bene la propria difesa. Nel finale torna a 4 punti e qualcuno intravede i finali fin qui dove negli ultimi minuti si riusciva per Georgievic e i suoi ragazzi a rimettere in sesto la partita. Ciò non è avvenuto ed è una cosa appunto strana, perché sì, un arbitraggio sicuramente non degno di sufficienza, però non a mio avviso determinante per il risultato finale. Virtus che ha atteso una settimana molto molto importante, mercoledì in Coppa contro Patras, una vittoria potrebbe dare la quasi certezza di arrivare tra il primo e il secondo posto nel girone, poi avere probabilmente una situazione per il girone della seconda fase un pochino più importante. Poi sabato sera arriva Brindisi a Palfiera, Brindisi che ieri ha perso in casa contro Sassari, che ha qualche defezione come aveva Cremona, ma abbiamo visto che Cremona è riuscito ad andare oltre l'ostacolo per le sue assenze, quindi importante capire se questo questo episodio non tanto della sconfitta, ma come è arrivata con una squadra poco lucida e poco reattiva, è un esodio o è un segnale di una situazione che è un po' variata. Per questa settimana è tutto, buona giornata. Stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. 9:34 minuti di questo 9 dicembre, giornata plumbea che viene contraddistinta da questo effetto sismico della notte non lontano da Bologna, al Mugello. Sono 36 per il momento le scosse sismiche verificatesi nel Mugello proprio nelle ultime 12 ore, con epicentro nei comuni di Scarperia, San Pietro e Barberino, dove sono risultate danneggiate alcune abitazioni di una chiesa. Non c'è nessuna situazione di allarme, non ci sono danni a persone, i danni agli edifici non sono gravi, dice il prefetto di Firenze Lega. Intanto è ripresa la circolazione del treno sulla linea dell'alta velocità nei pressi del nodo di Firenze, che era stato sospeso dopo la scossa più forte di magnitudo 4,5 avvertita anche a Prato. Quindi la Protezione Civile sta monitorando la situazione, l'Unione dei Comuni del Mugello ha aperto la sala intercomunale di Protezione Civile a Borgo, lunga la serie di scosse che sono state registrate appunto con questo epicentro massimo di 4,5. Detto questo, vedendo appunto come evolve la situazione sismica nel nostro Appennino, andiamo subito agli esteri con questa notizia che farà gelare il sangue nelle vene. Arriva da Delhi, la capitale indiana, brucia la fabbrica dormitorio, strage tra i veicoli di Delhi. Almeno 43 morti intrappolati, camere senza finestre, incastrato il camion dei pompieri, tanto erano anguste le strade e la situazione. Ed è una news che doveva avvertire gli italiani quando sentono dire di non creare interesse negli investitori stranieri come ArcelorMittal l'indiana. Questo forse è un avvertimento, così intendo loro per interesse. Comunque, La cronaca terribile parla dei primi pompieri arrivati all'alba, leggo dal Corriere della Sera, articolo di Alessandro Muglia. I primi pompieri arrivati all'alba nel laboratorio in fiamme non si aspettavano di trovare così tanta umanità intrappolata dentro. Il fumo era fitto, non si vedeva niente, soltanto le grida da fare a bussola in quell'edificio sgangherato di 4 piani con l'unica uscita su un vicolo angusto nella vecchia Delhi, non lontano dal Forte Rosso, così frequentato dai turisti. Stanze dove di giorno si confezionavano borsette, zaini, e di notte diventavano dormitori, magari quelle borsette zaini che vediamo nei saldi natalizi qua. Gli operai, tutti uomini, per lo più migranti stagionali, dopo aver lavorato 10-12 ore di fila per meno di 2 euro al giorno, non tornavano ai loro villaggi distanti centinaia di chilometri. Chi si trovava al pian terreno al primo piano è riuscito a fuggire, per gli altri non c'è stato scampo. In 43 sono morti, per lo più affissiati nel sonno, dormivano in stanze prime finestre senza ricircolo d'aria. Tra loro anche un ragazzo di 13 anni. Siamo arrivati al primo piano, abbiamo evacuato una dozzina di persone, ma poi siamo accorti che sopra ce n'era un'altra, abbiamo chiamato rinforzi, racconta l'Indiana Express Races, Sukla, pompiere subito acclamato come un eroe perché ha salvato molte persone. Questo è il quadro terrificante dello sfruttamento nei luoghi di lavoro che raggiunge dei livelli incredibili. Ma andiamo invece al giornale, girando per il mondo in questa pagina degli esteri che apre la nostra rassegna stampa di Radio Zanardi, e andiamo in Cile e ad Hong Kong. Vediamo come il giornale tratta in modo diverso due rivolte di piazza. Evidentemente gli amici degli americani sono buoni e i loro nemici sono cattivi e viceversa, perché in Cile Santiago nel caos, dice Paolo Manzo dal Cile. Il Cile brucia da 15-50 giorni in fiamme Casas Italia, rubati i testi di Neruda, incendiata la sede del consolato e depredata dagli studenti, la biblioteca dell'università, dove per studenti viene messo tra virgolette. Mentre ad Hong Kong gli studenti perdono le virgolette perché siamo contro la Cina. In 800.000 la marcia pro democrazia e lo stop alle estradizioni non basta. Quasi 1 milione di persone in strada per rivendicare 6 mesi di proteste e chiedono un'indagine sulla brutalità della polizia. Ora, naturalmente, se si misurasse mai le questioni del mondo col tasso di violenza dei manifestanti, credo ad Hong Kong abbiano pochi rivali, ma non è questo appunto il metro di misura giusto, è solo che viene usato in modo strumentale a seconda che sono amici di Trump o meno. Sempre dal giornale, almeno questa volta con la pagina esteri del Foglio. In 800.000 dunque lo stop alla legge sulle estradizioni non basta più, la protesta di Hong Kong è cresciuta giorno dopo giorno e ora la posta si è alzata, la grande marcia per la democrazia ha mantenuto le promesse. Gli organizzatori parlano di oltre 800.000 persone scese nelle strade e nelle piazze, anche se le forze dell'ordine tagliano le presenze a meno di 200.000 persone, che comunque non sono certo poche. Mentre in Cile, dove ormai gli incendi si contano a migliaia, l'altra delle proteste tutt'altro che pacifiche si sconvolgono da 51 giorni il paese, dopo il palazzo dell'Enel di Santiago è stata inghiottita alle fiamme anche la storica villa di Casa Italia di Vigna del Mar, già sede anche del nostro consolato. Le famiglie degli immigranti italiani si riunivano proprio in quell'edificio dichiarato patrimonio nazionale per fare feste, celebrare matrimoni, organizzare mostre, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il giornale che appunto ci mette anche un pizzico di italianità tradita. Questo è quello che arriva dal giornale. Ma andiamo in Europa. Per cui abbiamo in Turingia, una persona con cui vorrei stringersi la mano. Perché dico questo? Perché da Berlino, ci racconta il Corriere, col suo corrispondente in Germania, la sindaca Wolf sfida la legge: non stringo la mano ai neonazisti eletti. In Turingia è un dovere stringere la mano agli eletti, ma lei dice: ma il mio corpo è mio, quindi lo gestisco io e a quella gente non stringo la mano. Il consigliere Vex è dell'NDP, per la Corte Suprema è un partito nemico della Costituzione, pure viene eletto e dovrebbe stringersi la mano. Ma Katia Wolf, 43 anni, è dal 2014 prima cittadina di Elisenet, 45.000 abitanti, celebre per dato Natale a Johann Sebastian Bach. Eletta nelle liste della Link, la sinistra ovviamente, dico ovviamente perché questi comportamenti antifascisti si vedono nella sinistra, si è sempre rifiutati di farlo con i consiglieri del NDP, il Partito Nazionale Democratico Tedesco, organizzazione di estrema destra ancora più radicale di AfD e di chiara ispirazione neonazista. Questo è quello che succede in Germania. Dalla Germania mi sposto all'altro locomotore dell'Europa, la Francia, ma un locomotore che batte i colpi in testa nel motore, perché leggiamo il dossier del Fatto Quotidiano: le piazze piene, piano Macron, un fallimento. Quindi la riforma delle pensioni, c'è la controriforma delle pensioni che è un diktat internazionale della finanza per tutti i paesi, viene contestata dalle masse in Francia. Dopo i gilet gialli, la strategia del presidente è un flop. Ai francesi non bastano il taglio delle tasse e le promesse di crescita. Centinaia di migliaia di manifestanti per difendere le pensioni. L'obiettivo, la realtà. Il governo punta a trasformare il paese con riforme neoliberali, però i cittadini dicono di no. E ci sono dei gilet gialli con curiosi cappelli di Babbo Natale in testa. Poi andiamo, girando sempre pagina, andiamo in Inghilterra, anzi nel Regno Unito, perché sembrava travolgente la vittoria di Boris Johnson e dei conservatori, tanto da paragonarlo a una signora nuova Madame Thatcher, e in realtà le cose stanno ridimensionando. Beh, lo ce la conferma una fonte insospettabile, non certo con una simpatia di sinistra, cioè leggo dal giornale, Erika Orsini. Tories, la maggioranza assoluta a rischio, i sondaggi adesso agitano Johnson, Boris Johnson. Il premier Gliese non dice se lascerà in caso di vittoria parziale. È nervoso Boris Johnson nell'ultima settimana prima del voto. In cambio, il cambio di strategia del Labour, che ha puntato a sinistra, e la sua lieve rimonta, ridotta ad 8 punti percentuali di distanza dei conservatori, beh, erano 18 prima, non è così lieve, minano la solita sicumera del biondo ex sindaco di Londra, che amerebbe vincere facile. Inoltre, le interviste lo mettono a disagio, soprattutto quelle delle agguerrite giornaliste di Sky News, un emittente di cui di fatto non ha concesso molte possibilità di farsi intervistare. E in passato, quando gli sono chiesti i motivi di questa riluttanza, ha risposto spazientito: ma che di diamine se parla se le sto rispondendo? Questo è Boris Johnson, questa scheggia impazzita, la Salvini, la Trump, che agita il Regno Unito. Dunque, leggiamo, quando gli si chiede se per 3 volte oggi se si dimetterà in caso di elezioni di giovedì il partito non ottenga la sua maggioranza assoluta, menzionando proprio il sondaggio che rivela la corciata distanza tra il suo partito e i laburisti, evita di rispondere ma ammette di essere nervoso. Questo è il giornale su Boris Johnson. E allora che è successo per il laburista da far cambiare un vento elettorale? Contropiano, il giornale comunista parla della sfida del manifesto laburista, con alcuni elementi di merito che vengono segnalati. Dunque troviamo che si dice affrontare la povertà e l'ineguaglianza. Questi laboring poor sono un fenomeno che caratterizza l'attuale società britannica, mentre le retribuzioni non hanno ancora raggiunto i livelli pre-crisi, i dividendi degli azionisti sono schizzati in cielo. Così, mentre le classi subalterno vengono coinvolte in una spirale di indebitamento a causa dei bassi salari e dell'aumento complessivo del costo della vita, la parte più ricca ha potuto prosperare indisturbata. Quindi il Labour vuole introdurre il salario minimo di almeno 10 sterline l'ora dai 16 anni in su ed è un reddito di base universale. Noi ci lamentiamo, la nostra destra si lamenta per il reddito di cittadinanza, pensate a voi davanti un reddito di base universale. Oltre a questo, costituirà un Inclusive Ownership Fund, rendendo i lavoratori proprietari di almeno il 10% delle aziende, con una distribuzione equa dei dividendi, per i quali è previsto un tetto con una parte che servirà per finanziare il fondo per la transizione climatica, Climate Apprenticeship Fund. Aumentare il potere dei lavoratori attraverso l'organizzazione sociale sindacale, la contrattazione collettiva è uno dei cardini di questo manifesto laburista. Con questo un nuovo ministero proposto, il Ministero dei Diritti dell'Occupazione. E dicono che del Labour, nella loro filosofia, e leggo ancora da contropiano, siamo fieri delle conquiste del movimento sindacale nel dare dalle persone una voce nei posti di lavoro attraverso la contrattazione collettiva. Non è solo una parte della nostra storia, ma è parte del nostro futuro. Solo cambiando i rapporti di forza in favore dei lavoratori otterremo salari decenti, sicurezza e dignità nel lavoro. Sì, vorrei tornare alle manifestazioni delle donne che hanno raccolto l'appello delle manifestanti cilene, perché anche a Bologna ieri c'è stato un cosiddetto flash mob, un'incursione in Piazza Nettuno di non una di meno e un sacco di collettivi femministi del nostro territorio per riprodurre in italiano quella che era stata la manifestazione delle donne cilene. Batti il piede a sinistra, la colpa non era mia, batte il piede a destra, non per dove mi trovavo né per quello che indossavo, punta il dito davanti a te, lo stupratore sei tu, chinati e porta le braccia alla testa come a difenderti da un colpo, l'assassino sei tu, la colpa non è mia né in casa né per la via. La protesta delle donne attraversa l'oceano e passo di danza, partito da quel Cile dove lo stupro ormai è diventato mezzo di repressione di Stato, un violador en tu camino, il coreografico flash mob contro la violenza sessuale e il femminicidio sta già facendo il giro del mondo, e appunto come questo articolo di Repubblica ci racconta che sta facendo il giro del mondo, che è stato raccolto da varie piazze, ma si guarda bene dal proclamare in maniera troppo marcata il fatto che anche in Italia questa cosa è stata raccolta e ieri è andata in scena, vogliamo dire così. L'unico è l'unico riferimento di questo è una foto e nella descrizione di una di queste foto, la numero 2, il flash mob a Roma, fine. Questo è che ieri in molte città italiane sia successa questa cosa, evidentemente non guadagna notizia. Era una cosa troppo come dire coreografica, viene derubricata a che ne so, nota di colore che non fa notizia. Questo è quanto, e noi invece vogliamo che faccia notizia, quindi vi invitiamo ad andare a rivedere i video che girano anche in rete della rappresentazione che è stata fatta ieri a Roma, Bologna, in varie città. Poi andiamo, a proposito di piazze, andiamo ad Hong Kong, perché sempre Repubblica dedica tutta pagina 15 agli italiani di Hong Kong. La docente, il musicista, il prete, capiamo la rabbia dei ragazzi, se arriva l'esercito andiamo via. Insomma, come se la stanno sfangando fondamentalmente gli italiani a Hong Kong, che è notizione insomma fondamentale. Ovviamente fanno quello che possono, sostengono e sono d'accordo con le istanze che portano avanti i ragazzi che stanno protestando. Nello stesso tempo, se ci sono tafferugli, cercano il vicolo riparato, insomma, come succederebbe in tutto il mondo. Ma però questo guadagna un paginone così. E poi c'è questo grande come dire incidente diplomatico, non lo so se definirlo così. C'è un'intervista che è stata fatta da mica dall'ultimo giornalistucolo o giornalistucola ad articolo, no, da Monica Maggioni, che è l'AD di RaiCom, quindi voglio dire, ha fatto un'intervista ad Assad, il dittatore, possiamo definirlo così, siriano. Bene, però questa intervista sembra congelata, vogliamo definirla così, e si scatena un caso internazionale dai contorni assolutamente inediti, ci dice Emanuele Lauria, un pasticcio che coinvolge e mette in forte imbarazzo i vertici Rai. Stasera, quando in Italia saranno le 20, i media siriani manderanno in onda l'intervista al presidente Bashar al-Assad, effettuata dalla DD RaiCom, Monica Maggioni appunto. Lo faranno dopo aver fatto scattare un ultimatum senza precedenti alla TV di Stato italiana, accusata pubblicamente di aver congelato sinora il video del colloquio con Assad. L'ufficio stampa del governo di Damasco racconta infatti di aver convenuto una messa in onda dell'intervista il 2 dicembre, in contemporanea su Rai News e sui mezzi di informazione siriani, ma di aver ricevuto, proprio da parte di Rai News, una richiesta di rinviare la trasmissione senza una chiara spiegazione. In Siria fanno sapere che ora non vogliono più aspettare e commentano così il comportamento della Rai, un ulteriore esempio dei tentativi occidentali di nascondere la verità sulla situazione in Siria. Che la Rai mandi in onda l'intervista a questo punto viene considerato improbabile, ma la vicenda aggiunge caos ai piani alti di via Mazzini. Unica certezza è che l'intervista c'è ed è stata realizzata il 26 novembre. Ieri l'entourage di Assad ne ha mandato in onda addirittura un trailer. Fabrizio Salini ha fatto sapere però che il servizio giornalistico non è stato effettuato su commissione di alcuna testata Rai, pertanto non poteva venire concordata a priori una data di messa in onda. Sì, certo, chiunque può, adesso mandiamo il nostro direttore Alessandro Canella a intervistare Assad così e vediamo cosa succede, perché vabbè. Ma Salini sapeva della missione di Monica Maggioni? Se la D questo non lo dice, la Maggioni è costretta a precisare. Ha ragione Salini nel dire che l'intervista non era stata concordata con i direttori di testata, ma io l'avevo messo al corrente, si era detto che si sarebbe deciso successivamente come utilizzarla. Insomma, staremo fa vedere, è infuriato il presidente della RAI FOA, io all'oscuro di tutto, e questo è quanto, vedremo come si svilupperà, insomma. Certo è che il caos regna sovrano nei nostri media pubblici. Bene, finisco, parlavamo prima di manifestazioni di donne, andiamo in Finlandia, benvenuti in Finlandia, ci dice il quotidiano nazionale, dove il potere è donna, ovviamente questi titoli ad effetto. Sanna, 34 anni, sarà il nuovo premier, Sanna Marin è il nuovo premier della Finlandia, affiancata da Katri Kulmuni e Li Andersson, sono tutte e tre donne, appunto, ed ecco perché il potere è donna. Con lei nella coalizione di governo, appunto, anche le altre due che citavamo hanno meno di 100 anni in tre, controlleranno il nuovo governo della Finlandia che secondo le previsioni verrà nominato domani dal Parlamento. Sanna Marin ha 34 anni, Li Andersson 32 e Katri Kulmuni 32 sono le leader della coalizione di centrosinistra che si appresta a governare il paese dopo la crisi innescata dalle dimissioni del premier Antti Rinne. Tutte e tre hanno già operato nell'esecutivo precedente, quindi erano già ministro, e considerate che l'esecutivo precedente contava 11 donne su 20. Sanna Marin sarà il primo ministro, lo ha deciso ieri il suo partito, i socialdemocratici, l'SPD, in una votazione che ha battuto di misura l'altro candidato, il 37enne Antti Lindtman, e sarà anche il più giovane primo ministro della storia della Finlandia. Non ho davvero mai pensato alla mia età, non lo faccio spesso, ha dichiarato nei suoi discorsi di ringraziamento, grande aplomb e risposta molto intelligente di questa neo premier, a cui facciamo tutti i nostri auguri. Veniamo all'Italia, dove il centrodestra è rimasto con un pugno di mosche perché le tasse di che tanto strombazzate evidentemente non sono presenti nella manovra finanziaria. Salvini dice all'Annunziata, beh, le hanno solo rinviate, quindi il tema è se non piove pioverà, se non tassa tasserà, oppure il tempo di Roma, i prestigiatori delle tasse ci prendono in giro. Il governo annuncia, abbiamo evitato la nuova IMU, che però non avevano introdotto loro, nessuno ha introdotto nessuna IVA, poi leggeremo. IVA, plastica, bibite, prima si inventano le imposte e poi le tolgono e vogliono pure gli applausi. Questo è il centrodestra che comunque continua il suo tormentone. E andiamo allora al no di Gualtieri, la stretta del limo dal Corriere per imparare cosa è successo. Non è che c'era la remissione della tassa sulla prima casa, si voleva castigare quelli che le coppie che danno due residenze diverse in modo artificioso, ma abitando poi insieme, non pagano una tassa né nella prima casa né nella seconda. Il ministro dell'economia contro PD e 5 Stelle, non è un emendamento dell'esecutivo, quindi no di Gualtieri. Da Salvini e Borghi la campagna terroristica sul fondo salva stati, tensione all'interno dei 5 Stelle. Questo è quello che racconta il Corriere con Marco Galluzzi. Dice che il rinvio di alcune misure dipende anche dalle risorse, se avessimo avuto più soldi o l'IVA non sarebbe accaduto, era strasicuro della tenuta del governo, una crisi gennaio, penso assolutamente di no. Questo è Gualtieri che poi dice Salvini fa campagne terroristiche dicendo tutte di più tra cose vere, cose non vere, cose verosimili e cose assolutamente fasulle. Tanto in questo grande blog dell'informazione, tanto al chilo, tutto può sembrare vero, tutto può sembrare falso, secondo se ti schieri in una curva ultras dell'uno o nella curva ultras di quell'altro. Allora andiamo a vedere le finte prime case, per andare invece in tribuna della stampa. In Italia sarebbero 135.000. A Courmayeur, per esempio, due mesi fa, in modo da prepararsi per il tempo alla stagione sciistica, pensiamo che Courmayeur sono molte coppie divise, il comune ha investito 20.000 euro e si è rivolto ad una ditta specializzata per verificare, leggo, la sussistenza della contestuale dimora abituale della residenza anagrafica del contribuente e del proprio nucleo familiare. Ma anche la Maddalena in Sardegna, dove il comune si era mosso da tempo recuperando 500.000. Con poca fantasia li chiamano i furbetti dell'IMU. Sono quelli che trasformano per il fisco una seconda casa in prima casa, tecnicamente abitazione abitazione principale, perché nella sua seconda casa si paga l'IMU mentre sulla prima casa no, evidentemente. Ma sbaglia chi pensa che il fenomeno sia confinato solo soltanto alle zone turistiche di lusso. A Boiano in Molise il comune ha sfidato la pratica di un'unità esterna che ha già notificato 506 avvisi per un totale di 475.000 euro, non proprio spiccioli. E questo è frenato il governo sull'IMU, non se ne farà nulla di questa verifica dei furbetti della tassa sulla casa. Nel frattempo, appunto, su questo dice il governo in ritirata, salta la stretta sull'IMU e le mance elettorali. Gualtieri boccia la proposta, parte la caccia ai nuovi fondi per accontentare i partiti. E questo è l'ultimo cavallo di Troia, cavallo di battaglia, scusate, del giornale. Ma forse più attentamente il Corriere vede sulla convinzione dei stessi contraenti del patto di maggioranza di durare a lungo. Perché un decreto nel cassetto per evitare l'aumento dell'IVA se il governo cade. Dice Lorenzo Stravia, ci sono alcuni provvedimenti magari meno altisonanti che fanno capire sulla tenuta del governo e sulla fiducia in questa tenuta. Allora si va in un cassetto, un provvedimento in questione è un decreto legge di poche righe, ma nel suo genere esplosivo. Il decreto infatti si limita a bloccare gli aumenti dell'IVA e delle accise che scatterebbero il 1 gennaio del prossimo anno, cioè tra 20 giorni. Ed è l'uscita di sicurezza che il governo vuole tenere sgombre in caso di una crisi nei prossimi giorni che si potrebbe aprire con un incidente sulla manovra al Senato, dove il margine della maggioranza è più risicato, oppure nel caso in cui la stessa manovra non venga approvata entro il 31 dicembre, anche per le proteste dell'opposizione contro l'idea della maggioranza di far votare le modifiche solo al Senato per ridurre i tempi. I furbetti del divorzino, non so come li chiameranno, come dire. Certo è che salta la stretta sulle false residenze. Gualtieri, governo contrario. Il ministro dell'economia prende le distanze dall'emendamento che consentiva alle famiglie di indicare una sola prima casa su cui non versare l'IMU. Scontro con Salvini sul bonus per gli asili nido e sul fondo salva stati. Quindi le ultime modifiche alla manovra. Io sarei per proporre per i prossimi anni di parlare della manovra dal primo di gennaio, dal 2, va. Perché così si parla concretamente di quello che è stato infilato in manovra oppure no. Anche perché sinceramente se uno adesso si mettesse lì a ripensare a quante cose ci sono in manovra o meno, creerebbe delle fake news senza volerlo, perché è stato detto tutto il contrario di tutto. In realtà alla fine ancora cosa ci sarà in questa manovra non è proprio chiarissimo, e quindi come dire, sarebbe meglio parlare sul definitivo. Luci accese, rubinetti aperti, tutti i trucchi per eludere la tassa. Alfredo, mi vai ad accendere la luce il mercoledì, che così pensano che ci abito, come se le persone che stanno lì intorno, insomma, non si rendessero conto se c'è uno che va a accendere la luce il mercoledì oppure se ci si abita. Tutti sappiamo che dei nostri vicini si vede chi entra, chi esce, insomma, vabbè. Andiamo avanti con questi. Medici di base, troppi in pensione, 16.000 posti non saranno coperti. Ogni tanto c'è questa uscita temporale della carenza di medici. Sostituzioni non sufficienti da qui al 2023. Allora non ci sono sostituzioni sufficienti negli ospedali, tra i medici di base. Insomma, il segretario dei Camici Bianchi avverte: il nord è già in sofferenza, la medicina generale è svalutata anche nelle facoltà universitarie, ma rappresenta un presidio fondamentale. E ancora. Ah, poi dopo sotto c'è la giovane dottoressa. Sogno uno studio mio, ma i costi sono alti. E quindi questa ragazza, Alessandra Taraschi, medico di famiglia a Torino, dice: perché ha scelto di fare il medico di base? È una figura che mi ha sempre affascinato, anche se l'incontro vero e proprio con la medicina generale è avvenuto dopo la laurea. Durante il tirocinio per l'esame di Stato ho capito che non mi interessava l'iperspecializzazione, ma l'uomo nella sua totalità. Spero di riuscirci a breve, per mettersi in proprio. C'è una carenza di medici di base, mi sto già guardando intorno, anche se ci sono spesso strutturali scusate, anche se ci sono spese strutturali, è un grosso investimento iniziale da qualche migliaio di euro, l'affitto di uno studio, il mobilio, il PC, la strumentazione, a cominciare da otoscopio, materiale per vaccinazioni, eccetera. C'è troppa burocrazia, per smaltirla sarebbe utile la figura di un collaboratore, ma andrebbe sfoltita in generale. Noi puntiamo a fare i medici, ma a volte siamo stanchi perché dobbiamo controllare altri aspetti che andrebbero semplificati. Insomma, un po' come in tutti i lavori libero professionali, c'è un peso relativo a faccende che non riguardano il lavoro proprio in senso stretto, e che appesantiscono il tutto e magari sottraggono spazio e tempo al lavoro vero e proprio. E, andiamo a vedere le bufale che girano a proposito di economia, perché c'è ancora questa cosa del MES di cui nessuno ha capito nulla, compresi quelli che ne parlano, però gli slogan si moltiplicano: blocchiamo il MES, il centrodestra è unito, può convincere 5 Stelle. Questa è Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia. Gualtieri ci attacca, non siamo terroristi, vogliamo solo difendere i risparmi degli italiani. E quindi, e di bufala in bufala, perché appunto anche questa storia che il MES è un'entità privata che si ciuccia i soldi di noi italiani è abbastanza una bufala, ma come è una bufala la risposta di Gualtieri sulla sulla manovra, quando dice il conto del papete è stato pagato. No, c'è anche il conto del balcone, ce n'è dei conti, e qualche conto di questi è ancora inserito nel governo. Quindi ok, Salvini non sta simpatico a molti, però adesso addebitare tutto a lui la finanziaria scorsa direi che è ingiusto, quantomeno. Carfagna e la cena con i 20 ribelli forzisti, pronti ad andarcene se cediamo a Salvini. Sì, perché c'è il polemicone anche su Forza Italia, ovviamente. Le donne, la fanda polemica in questo caso, perché da un lato c'è Francesca Pascale, la compagna di Silvio Berlusconi, che ha detto che scenderebbe volentieri in piazza con le sardine, e questa cosa ha fatto imbufalire Berlusconi, nonché ha fatto partire le reazioni di Salvini e Meloni, che gli stanno dicendo: oh, ma che sta di questa, fondamentalmente. E intanto la Carfagna viene fuori che non sarà la candidata governatrice in campagna, perché l'ex premier ha deciso di puntare su Caldoro. E quindi insomma si apre di nuovo un abisso tra il partito e quelle che Repubblica oggi definisce le nemiche della Lega. Ma siccome il MES è complesso da capire, allora andiamo sulle cose più concrete. Scuola, presepe e cotechino, la banalità del razzismo, descrive così Tommaso Montanari della campagna della destra, Meloni in testa. Perché c'è la lettera dell'assessora di Fratelli d'Italia ai presidi della regione: natività e recite fondamentali, fondamenti della nostra identità. Cioè, se non fai la poesia di Natale, l'Europa non ha più radici cristiane. Questo è il quadro che allora su questa cosa Tommaso Montanari, persona di cultura, ricorda ai si dice agli amici di Fratelli d'Italia: per non dimenticare, nella Costituzione non si parla di fede, razza, etnia o tradizione, ma di sviluppo della cultura, che è tutt'un'altra cosa. Questo è quanto. Ma visto che parliamo degli ambienti della destra, andiamo a politiche e soldi. Salvini, congresso clandestino, il carroccio addio, il nord resta solo per coprire i guai col fisco, per cui nasce questo nuovo partito fondato da Bossi, finisce in soffitta, perché sarà la Lega per Salvini. Questo è il 21 dicembre la Lega Nord diventa Lega per Salvini Premier, il vecchio partito resta solo come bad company per i famosi 49 milioni da smaltire, con una rateizzazione di 87 anni che fa invidia a tutti quelli che comprano una casa con un mutuo a solo 15-20 anni. Ma atto in conclusivo, addio al vecchio statuto federalista, intanto nei sondaggi scende sotto il 30%. Tu parlai della campagna, in Calabria per anche la destra è a pezzi, veto leghista su Occhiuto, la prescelta Santelli, Forza Italia, quindi si spacca anche lì. Però invece c'è qualcuno che sta facendo patti col diavolo. Lui si chiama Matteo Renzi e il diavolo si chiama Matteo Salvini. Renzi e Salvini concordano una legge elettorale proporzionale. Qual è lo scambio, il mercimonio, il patto col diavolo? perché Salvini in questo modo ottiene da Renzi la caduta del governo alle elezioni e Renzi ottiene da Salvini in questo modo il non disfacimento del proprio partito di fronte a una soglia elettorale minimamente significativa. Questo è, e quindi anche chi come me è favorevole da sempre a proporzionale, perché sono convinto, rimango convinto che una testa un voto, beh, questo chiaramente è mosso da ben altre istanze. Renzi dice al Corriere: io preferivo il maggioritario, ma se si va alle urne oggi ogni partito si pesi, basta quel litio, le elezioni arrivano davvero, dice il leader, che naturalmente dice basta il litio, ma continua a fare dispetti, in particolare al PD, gli ex amici preti spretati, eccetera eccetera eccetera. Salvini invece afferma: non si blocca il paese per la legge elettorale, può andare bene pure il proporzionale, il segretario leghista, ma sia corretto chi vince i governi. Quindi non si capisce bene che proporzionale sia, se poi alla fine c'è un premio di maggioranza. Comunque, nel centrodestra oppure si pensa alla Repubblica presidenziale. Nel centrodestra ci sono solo litigi locali, superabili, il clima è assolutamente positivo, rassicura i suoi Salvini. E allora in questo patto col diavolo noi dedichiamo questo gruppo, Riccardo Centocelle, Mondo Marcio, patto col diavolo. Mondo Marcio, fuma quella la la, Rufio, fuma quella la la, Mondo Marcio, fuma quella la la, vivo all'inferno e non sai che felicità. Mondo Marcio, fuma quella la la, Rufio, fuma quella la la, Mondo Marcio, fuma quella la la, se sei all'inferno anche tu puoi capirmi, fra. Dovresti sentire come mi chiamano, il tuo è sacro quasi come un diacono, quando parte trema pure il tavolo, ma ci stai o no, è un fatto col diavolo, è così crudo che sembra quasi un amor, se suona male tranquilla tu un diapason, nel culo io non cerco il dialogo, ma ci stai o no, è un fatto col diavolo. Oh, 10 anni fa ho sentito una voce, diceva: Marcio, cosa vuoi avere dal futuro? Ah? Ho detto vorrei fare cash veloce, essere il migliore e avere puttane, tanto fumo, fatto col diavolo, man, dimmi non vorresti farlo, dimmi non mi segui mentre ti parlo, se vedi uno che sta meglio non vuoi imitarlo, comunque è naturale invidiarlo, pensa a una chance più veloce, e tutto quello che ti ci vuole è ribaltare una croce, io ci penso ogni secondo quando uso la voce, ho fatto rap precoce, dritto dalla fosse del peggio, l'ho detto vero perché sai che non mi atteggio, io e il rap siamo come gli acchetti e greggio, sono come una bomba, se non ti becco subito, quantomeno ti scheggio, sono corrotto come chi compra un seggio, drogato come Jimmy quando cantava Hey Joe, sono un voodoo child, sono il figlio del demonio, mangio hamburger e plutonio, e Chernobyl è la mia mamma, se vuoi provare a capirmi è un dramma, io sono un pancabestia sul pentagramma, l'aspetto inganna, ho il colpo in canna, ho la mia zanna, si è impiantata nel tuo collo, non te ne sei accorto, intanto sei già morto, sono un miracolo come Cristo che è risorto, dammi un altro colpo, fammi un altro torto, non sarà niente di nuovo, ormai ci ho fatto il callo, mettere me al mondo è stato un grosso sbaglio, adesso sento le voci come un sensitivo, ho fatto un patto col diavolo e sono ancora vivo. Dovresti sentire come mi chiamano, il tuo è sacro così come un diacono, quando parte trema pure il tavolo, ma ci stai o no, è un patto col diavolo, è così crudo che sembra quasi un amor, se suona male tranquilla tu un diapason, nel culo io non cerco il dialogo, ma ci stai o no, è un patto col diavolo. E da questo patto col diavolo andiamo dunque in altri temi, anzi rimaniamo nell'effetto sardine che sembra avere sfondato tra le culture giovanili, e questo preoccupa chiaramente il centrodestra, come già leggeva Francesca prima. Sardina, la sfida di San Giovanni, dice il giornale. Piazza simbolo per la prima nazionale a Roma, organizza una giornalista chignota, palco senza soliti noti. E c'è una serie di foto delle piazze italiane con gli pieni di persone, ombrelli o non ombrelli, che smentisce quelli che dicono dalla destra è il PD o non è il PD, cioè il PD queste cose oggi come oggi non sarebbe mai incapace di produrle. Evidentemente è una reazione spontanea di popolazione varia, questo va detto, che si batte per la democrazia, un primo esempio dato primario. Poi ci sono i furbi che cercano di entrare tra le sardine, perché essendo un movimento senza bandiere, beh, ci vado anch'io. Prima è stato Monti, adesso è l'ex ideologo di Fini, Filippo Rossi, ci sarò, anche a noi di destra spiace quel movimento. C'è una parte moderata oggi senza voce, quindi le sardine viste come un autobus o un tronco per tornare a galleggiare. Vedremo. svita la sardina, così si fa la piazza, dice Pesci fuor d'acqua, è il Fatto Quotidiano. Una volta li avrebbero chiamati bamboccioni, oggi i politici fanno la corte al movimento, non c'è dubbio, dei non, nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto, una vera rivoluzione. E poi c'è il plurintervistato Mattia Sartori, che ormai per i giornalisti è l'anima del movimento bolognese, perché la stampa, la TV, se non trovo un testimone non stanno bene. Comunque la tentazione di soldi, di potere non mi seduce, questo è affermazioni che fa dal Fatto Quotidiano. E quindi procedendo invece girando il fatto col Fatto Quotidiano, voltiamo pagina e veniamo ai misteri d'Italia. Sì, perché questa settimana si sarà il 12 dicembre, quest'anno sarà l'anniversario, il cinquantenario della strage che si dice aprì la famosa strategia della tensione, cioè le bombe non per destabilizzare ma per stabilizzare il potere politico. Infatti la piazza Fontana, ricordiamo, venne battezzata una pista rossa per frenare l'otte del 69 e del 68 e ci riuscì. Questo è fatto tristissimo, da questo, e ci riuscirono anche le bombe che seguirono a condizionare la vita politica italiana. Questo è il quadro. Piazza Fontana, 50 anni di prove occultate, dice Gianni Barbacetto dal Fatto Quotidiano per l'appunto. La documentarista della Camera, ci sono migliaia di carte già pubbliche ma sparpagliate, difficili da trovare, molte altre sono ancora inaccessibili dopo 50 anni, ma parla da sé. E poi appunto su le indagini, allora ci fu il commissario di Padova che fin da subito scoprì la pista nera, ma allora il ministro dell'interno Restivo prese questa nota che arrivava da Padova, la mise in un cassetto perché la pista doveva essere rossa. E allora quei luoghi dei neri che nessuno perquisì, il negozio di Casola Libreria dove si è indagato tardi, quindi il giro di Fride Ventura, la strage, i neonazisti che, delle chiaie, di quegli altri che si muovevano in questo torbido ambiente a confine tra lo stragismo nero e i servizi segreti. Molti documenti importanti sono ancora coperti di questa strage. Renzi promise di declassificarli, ma a decidere su che cosa rendere pubblico sono gli stessi apparati che misero il segreto. E c'è una figura tra le altre che ci ricorda e che va ricordata, il compagno anarchico Pinelli, che viene fatto precipitare dalla quarto piano della finestra della questura. Quel volo di Pinelli che cambiò la storia. Il famoso Pinelli è stato suicidato. Fu una campagna popolare di controinformazioni che portò sul banco gli accusati non già i rossi quanto i neri, lo Stato che li usava e li proteggeva. Mister Italia, dopo anni non c'è ancora verità sulla morte di Pino nella questura, c'erano gli uomini in ufficio, affari riservati del Viminale. E il resto del Carlino ci parla di Fortunato Zinni, anzi lo intervista proprio. Un paio di mesi dopo l'esplosione si è presentato in banca da me un signore con una cintura. È la sua, gliela restituisco. L'ha usata con me per frenare l'emorragia. Ricordavo un cliente in un lago di sangue che di fatto aveva perduto la gamba sinistra, ma non ricordavo e non ricordo di essere intervenuto. Fortunato Zinni è stato sindaco di Bresso dal 2008 al 2013. Nel 2007 ha pubblicato un libro, Piazza Fontana, nessuno è stato, con la S ovviamente maiuscola, perché dopo aver seguito tutti i processi e letto gli atti ha maturato la convinzione che la politica sia sostituita alla giustizia per impedire che si arrivasse alla verità. A breve una nuova edizione con al centro la storia delle vedove della strage. Si sente un sopravvissuto, risponde Fortunato Zinni. No, non sono fatalista, non credo al destino, ma ho la pretesa di pensare che ho il dovere di raccontare e lottare. Ci sarà anche una fiction televisiva che non l'ho vista, per carità, quindi aspettiamo di vederla posteriori, ma immagino che sarà come quelle altre, ridurrà la cosa a un polpettone socio, romantico, qualunquista, sentimentale. Quindi per sapere di più meglio ascoltare i contenuti che andranno in onda da questo pomeriggio a Radio Tafugico, con l'intervista per esempio al saggista Sergio Dalmasso, che ci parla delle promesse delle premesse dell'autunno caldo che portarono appunto questa provocazione terrificante. Si parte sempre con il 1956, quando finisce di fatto un pensiero unico, quando si apre un dibattito profondo a sinistra su posizioni anche diversificate dopo il crollo di una immagine unica all'Unione Sovietica, Stalin e altro. C'è il 1960, che è un fatto molto importante, perché davanti a un governo democristiano appoggiato dal movimento sociale il paese insorge, si hanno scontri sociali importanti e si apre sostanzialmente una stagione politica nuova. Al centro sinistra. Naturalmente questi moti mettono in luce molte cose, mettono in luce un sentimento antifascista profondo nel paese, ma anche un protagonismo di giovani che era impensato fino a quel tempo, e un malessere sociale profondissimo che covava nella società intera. Sempre in quegli anni partono lotte di fabbrica che erano sembrate bloccate, ferme per lunghissimo tempo, c'è un rilancio di questo, e i Quaderni Rossi di cui tu parli sono una rivista, per la carità, piccola, di nicchia se vogliamo, che non incide né molto a livello di massa, ma che ha dei grandi meriti, perché Panzieri, che è un marxista critico in quegli anni, mette la fabbrica al centro per l'iniziativa politica. Il partito non può esistere se non ha la fabbrica come suo centro, e c'è una rilettura che non è ortodossa di Marx, che tocca anche testi che non erano mai stati sostanzialmente toccati dalla ortodossia. Ancora, sempre schematizzando in un modo terrificante, c'è una serie di questioni internazionali. Scoppia il contrasto fra Unione Sovietica e Cina, quindi il movimento comunista internazionale non è assolutamente monolitico. Ci sono rivoluzioni anticoloniali che mettono luce soggetti nuovi, l'Algeria, la stessa Cuba, se vogliamo, che non è esattamente anticoloniale, ma si colloca comunque in questo discorso sul terzo mondo che c'era in quel tempo, senza fare alcun mito di alcuno fra questi paesi. In Italia nel PC ci sono contraddizioni e contrasti, c'è una storia di Azione Comunista a fine anni 50 che è tutta da scrivere, da conoscere, e ci sono i primi movimenti cinesi che ragionano in termini molto mitici della Cina, ma che mettono a luce una difficoltà, una contraddizione di una generazione, soprattutto partigiana, che si sentiva scarsamente rappresentata dalla politica del partito. E questo dunque sono le premesse che l'interlocutore, uno dei tanti che passeranno in questa nostra rassegna di rivisitazioni sulla strage di Piazza Fontana, sull'autunno caldo e sul 68-69, lui è Sergio Dal Masso, l'appuntamento appunto nel pomeriggio nello spazio informativo della nostra emittente. Vengo invece, per quanto riguarda i giornali, al titolo del giornale, ed è "Bombe in nome di Greta". Dice, beh, cosa è successo? Gli ecologisti hanno attaccato con le bombe Bruxelles, ma è incredibile. Tornano in Notav. È successo che c'è stata una manifestazione assolutamente pacifica, dove in Notav Story sono uniti anche i ragazzi di Fridays for Future. La mattina prima, come sempre succede con le parti, i ragazzi andate a fare delle dimostrazioni con lancio di petardi e quant'altro davanti ai cancelli della Val di Susa, dove sono i cantieri. Il giornale mette tutti insieme con quella sorta tranquillità per cui rosso, drogato e capellone tutto uguale, ancien regime. I centri sociali scatenano la guerriglia in Val di Susa, la Torino-Lione è un delitto climatico, così l'ambientalismo si colora di violenza. Questo è il trapezio pindarico del giornale. Per Persi 5 Stelle i contestatori si richiamano alla ragazzina, alta velocità, delitto climatico. Questo è è il quadro. Allora, più che altro c'è la sorpresa di alcuni che la Val di Susa da 14 anni continua a resistere nonostante tutto e tutti, ed è appunto una spina nel fianco delle grandi bugie, delle altrettanto grandi opere inutili e dannose, Val di Susa, Moso e quant'altro. Allora sentiamo Ivan del Comitato Giovani di Val di Susa su questa manifestazione di domenica. Ci troviamo quasi a 30 anni dall'inizio della nostra lotta, che appunto l'8 dicembre nasce da una ricorrenza dall'8 dicembre 2005, in cui liberavamo Venaus, in cui era situato il primo cantiere di questo storico progetto. Quest'anno il fatto di manifestare ha un duplice significato. In primo luogo è la difesa dell'ambiente, quindi appunto oggi contrastare queste grandi opere inutili significa difendere il nostro pianeta, che è sempre più a rischio. I cambiamenti climatici stanno condannando l'uomo e la natura, anche a causa dello sfruttamento delle risorse indotte da questo sistema economico comunque. Quindi anche da questo punto di vista il Fridays for Future nazionale si è dimostrato solidale alla nostra linea e al nostro movimento e ha riconosciuto i danni ambientali che saranno causati da queste opere inutili. In secondo luogo manifesteremo per i 20 attivisti che proprio pochi giorni fa hanno a cui si apriranno le porte del carcere per aver difeso la propria lotta nella propria terra da interessi politici mafiosi mirati al profitto di pochi soliti nodi, mentre la nostra terra viene abusata. Quindi questi sono i due grandi temi per cui quest'anno scenderemo in piazza. Infatti uno degli slogan appunto lanciati in vista di questa marcia è proprio perché liberare tutti vuol dire lottare ancora, proprio perché la repressione, come dicevi, ai danni del movimento valsusino e non solo ovviamente, si sta facendo sempre più stringente anche lì tra le valli torinesi, giusto? Sì, esatto. In particolare, vabbè, non si possono contare i processi che comunque il nostro movimento ha subito in questi anni, sono veramente tantissimi, alcune volte per cause del tutto ridicole. Appunto questi ultimi 20 persone, di cui fa parte anche Nicoletta Dosi, una nostra storica militante che ormai ha 73 anni, risalgono a una manifestazione 2012 in cui c'è stata una manifestazione in autostrada e in cui non c'è stata assolutamente nessuna violenza, nessuna cosa. Quindi questi 20 ragazzi, questi nostri 20 compagni si rischiano da 1 a 2 anni semplicemente per il fatto di aver manifestato la propria idea pacificamente in un'autostrada. Ecco Ivan, arrivando tra l'altro al tuo comitato in quanto giovane abitante della Val di Susa, cioè il comitato Giovani Notav, siete attivi nel territorio ovviamente della Val di Susa e raccogliete tutto quel gruppo di giovani che è sensibile a queste tematiche, dall'ambiente alla lotta per la difesa del proprio territorio contro le grandi opere, giusto? Sì, esatto, il nostro comitato è rinato circa 3 anni fa, è molto eterogeneo, tocca chiaramente parte dal TAV, che noi viviamo questa lotta comunque tutti i giorni, facciamo parte del movimento No TAV, ma poi appunto a molte altre lotte. Noi ci occupiamo di comunque salvaguardare i migranti che rischiano la vita al confine con la Francia, di ambiente insieme al Fridays for Future locale che si è formato da poco, la lotta di genere, quindi a trattare temi come il femminismo, comunque tutte queste varie lotte che... Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Un esposto per da presentare alla magistratura per chiedere se le parole usate sul quotidiano Libero per definire Nilde Iotti e le donne emiliane costituiscano un reato di diffamazione. È quello che stanno scrivendo le avvocate Cati La Torre e Rita Nanetti, ma che potrà essere sottoscritto da tutte le donne che si sono sentite offese e diffamate. È già in programma il primo appuntamento per raccogliere sottoscrizioni il 16 dicembre alle 18:30 nella Casa delle Donne di Via del Piombo 5, gestita dall'Associazione Orlando. Un aperitivo in cui le donne cucineranno e parleranno di politica per rispondere alla definizione che le ha viste definire ben altrimenti. E infatti avrete letto tutti le parole dell'editoriale dell'articolo di Giorgio Carbone su Libero e dice, riferendosi alla fiction andata in onda sulla Rai in merito alla vita e le opere di Nilde Iotti, scrive Carbone: era facile amarla perché era una bella emiliana, simpatica e prosperosa, come solo sanno esserlo le donne emiliane, grande in cucina e a letto, il massimo che in Emilia si chiede ad una donna. Questa definizione che davvero non si attaglia alle tante donne che in questi giorni si sono indignate. Sono centinaia le persone che mi hanno contattato, dice Cati La Torre. Voglio chiedere anche alla candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, che è una donna emiliana, se a lei questa presentazione va bene. Altrimenti la aspettiamo a firmare il nostro esposto. Dopo l'appuntamento dell'Associazione Orlando ce ne sarà uno al Pratello per far circolare il documento e dar corpo a una protesta che finora è rimasta soprattutto sui social, nelle chat, in tutti i luoghi informali in cui si fa politica. Insomma, odiare ti costa, continua la sua operatività con esposti e appelli alla giustizia, appunto, e azioni giudiziarie, e anche questo, diciamo, fa parte dell'odiare ti costa. Sabato sera c'è stata la prima della Scala, messa in diretta televisiva con un boom di audience, quasi 3 milioni di spettatori, un record, dice il spettacolo del Corriere della Sera. Livermore, interpellato regista dal Corriere da Pierluigi Panza, dice: la Tosca, la mia Tosca vince in televisione. E allora la domanda: si svuoteranno i teatri, si guarderà l'opera in TV? Lui dice: una preoccupazione eccessiva. Quindi qualcuno ha parlato di troppi movimenti, di cambi di scene. Non rispondo come Mozart l'imperatore, mi dite quali erano da togliere. Non è male. Poi qui ci sono i politici al quale ho rimproverato tagli del 33% alla cultura. La cultura è petrolio, promozione, con la cultura si mangia. Il problema non sono solo i soldi, che so anch'io che non si può tagliare la sanità per darli a noi, ma bisogna fare opportunità e creare sinergie. L'aspetto positivo del taglio è stato quello di fare il mestiere solo con le persone di valore. E poi naturalmente gira questa vicenda che riguarda l'Anna Nebretko, grande trionfatrice di questa serata. Alla prima lei ha sbagliato una battuta e c'è la faccia che fa sì, c'è la foto in primo piano, perché invece di dire voglio avvertirlo io stesso, lei ha ripetuto chi mi assicura. L'errore non è sfuggito ai social, ovviamente, che hanno castigato di brutto, però hanno perdonato la star, dicono è bravissima. E che noi abbiamo Francesca, hai 30 secondi per dire la tua soddisfazione per la Tosca. Ma bellissimo, un capolavoro, cioè sia dal punto, ha ragione Livermore, ditemi cosa c'è da togliere, perché in Italia siamo tutti allenatori, siamo tutti registi, siamo tutti economisti. No, era perfetta così, e poi c'è quel finale che è spettacolare. Se non l'avete vista vi invito, perché per 14 giorni sarà presente su Rai Play, quindi si può vedere e rivedere, anche per chi l'ha già vista e la vuole rivedere. Diciamo che ciò dimostra che quando in TV proponi dei contenuti di un certo tipo, di un certo livello, in realtà le persone li guardano. Quindi non è vero, smentisce esattamente il successo di questa Tosca e dell'opera, che ogni anno acquista telespettatori da quando hanno iniziato appunto a mandare la prima della Scala su Rai 1. Dimostra esattamente che la frase mandiamo in onda questa roba perché è quello che ci chiedono è fondamentalmente sbagliata. Poi chiaramente grandi applausi quando arriva Luciano alle Stelle, questo era come, e il commentatore ha detto ma non è Pavarotti, effettivamente, però questa non è un'argomentazione, però noi Pavarotti, Luciano alle Stelle, sentiamo. E con questo vi salutiamo, direi che siamo andati in fondo, se non è altro da aggiungere noi ci lasciamo invece col bel canto. Ciao a tutti.